Cazzola, Pelé, Carrele, Vecchio, Cazzola, Pelé, Carrele. Denunti delle nostre galere, la tortura anche in Italia, non solo in Salvador, la tortura anche in Italia, non solo in Argentina, mai più tortura delle galere, mai più tortura delle galere. Scarica i genitali, liquida a pestare, a chi sotto le unghie, testaggi regolari. Tortura democratica, legalizzata mai, su prigionieri politici, torturati e sequestrati, mai più tortura nelle galere, mai più tortura nelle galere. Tortura, mai più, galere, mai più, tortura, mai più, galere.